Sono mesi che ti spio e mi stringo i capezzoli in dito quest'albero. Mi eccito, voglio il tuo fallo. Armando. Ma che macio sto contadino, mi si arrappa il capezzolo, è duro. Tu non sai che ti farei, tra le zucchine scoperei. Bel maschione, vieni qua, sto bagnata. Ti voglio far, ti voglio far, Armando. È da provare, è da provare il tuo fallo. Violentami, strombazzami, sculacciami un po'. Ti voglio far, ti voglio far, ma schiaccio. Armando, Armando, voglio il tuo fallo, voglio il tuo fallo. Armando, Armando, voglio il tuo fallo, voglio il tuo fallo. Dai, su, vieni qua, Armando, vieni qua. Sarai mio, solo mio, con i tuoi pelacci, oh contadino. Sono tua, tutta tua. Sbattimi in cariola la tua ciola. Tu non sai che ti farei, tra le zucchine scoperei. Bel maschione, vieni qua, sto bagnata. Ti voglio far, ti voglio far, Armando. È da provare, è da provare il tuo fallo. Violentami, strombazzami, sculacciami un po'. Ti voglio far, ti voglio far, ma schiaccio. Armando, Armando, voglio il tuo fallo, voglio il tuo fallo. Armando, Armando, voglio il tuo fallo, voglio il tuo fallo. Ti voglio far, ti voglio far, Armando. È da provare il tuo fallo. Violentami, strombazzami, Armando. Ti voglio far, ti voglio far, Armando. Ti voglio far, ti voglio far, Armando. È da provare, è da provare il tuo fallo. Violentami, strombazzami, sculacciami un po'. Ti voglio far, ti voglio far, ma schiaccio. Armando, Armando, voglio il tuo fallo, voglio il tuo fallo. Armando, Armando, voglio il tuo fallo, voglio il tuo fallo.